Nuova stagione per il Teatro Odeon, ne parliamo col direttore Piero Ferrarini. Allora, due parole su questa stagione obiettivamente ricchissima e che si dipana su vari ambiti artistici. Sì, questo è vero. Diciamo che la pluridisciplinarità è uno dei punti di forza del Teatro Odeon, credo, e del teatro italiano in generale oggi. Stiamo finalmente, anche se con grande ritardo rispetto ad altri paesi europei, uscendo dalla logica angusta del genere fisso, diciamo così, quindi della vocazione unica per il teatro, un teatro di prosa, un teatro che fa solamente commedia o un teatro che propone soltanto testi drammatici, per arrivare invece finalmente all'idea di spazio aperto. È un concetto che a me è molto caro, credo che il teatro debba essere innanzitutto la casa degli spettatori e quindi debba poter incontrare, intersecare gusti diversi e soprattutto proporre forme di spettacolo differenti. Oggi la proposta è molto molto ricca a livello nazionale, abbiamo emergenti e sollecitazioni che provengono per esempio dal mondo di internet, dal mondo della rete. Abbiamo compagnie che fanno già attività teatrale, ma che sono, diciamo così, tradizionalmente purtroppo escluse o poco considerate nell'ambito dei teatri istituzionalizzati. Abbiamo giovani attori che vogliono proporre, giovani attori di valore naturalmente, che vogliono proporre il loro prodotto artistico. Ecco, io credo che da questo punto di vista il Teatro Odeon possa rappresentare, quantomeno su Bologna, un punto di riferimento e questo è anche, diciamo, l'obiettivo che ci proponiamo già da qualche stagione e che intendiamo poi perseguire anche nel corso delle prossime. La programmazione, come dicevo, è molto ricca, è molto frastagliata e soprattutto segmentata e propone, credo, praticamente tutti i generi e tutte le diversificazioni di quello che è lo spettacolo italiano oggi. Andiamo naturalmente dalla prosa, c'è una parte importante di prosa, ma questa è la tradizione del teatro Odeon dalle origini, ma accanto abbiamo per esempio One Woman and One Man Show, abbiamo stand-up comedy, un genere che a me è molto caro. Quando fatto bene, credo sia uno dei forse dei generi emergenti più interessanti. Abbiamo un'attività musicale di tutto rispetto. Quest'anno ricordiamo, oltre a Bononia Sound Machine, che è un ospite ricorrente del nostro spazio, anche Banco del Mutuo Soccorso e ha nomi di rilievo davvero nazionale. Abbiamo ovviamente un teatro narrazione, avremo Andrea Scanzi, avremo Mario Giordano, quello che oggi viene definito infotainment, e avremo, come accennavo prima, anche una cospicua rappresentanza di emergenti provenienti dal mondo di internet, quelli che oggi vengono definiti content creator o youtuber, anche se youtuber è forse un po' riduttivo. Quelli naturalmente che in qualche modo sposano direttamente o meno quello che è la linea culturale del teatro, quindi per esempio Rick Dufer, che è un esperto di filosofia, è un divulgatore in campo filosofico. Abbiamo Gabriella Greison, che nel campo della meccanica quantistica presenta uno spettacolo molto interessante su Paul Dirac, premio Nobel per la fisica nel 1933. Abbiamo Roberto Mercadini, difficile inquadrare Mercadini, difficile dire che cosa è Mercadini. Da biblista a narratore, uno sicuramente forse degli emergenti veramente più interessanti. Naturalmente, a fianco di tutto questo, prosegue anche quella che è l'attività sociale del Teatro Odeon, soprattutto grazie alla collaborazione con Casa dei Risvegli, con Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, che quest'anno porta a compimento il 20° anno consecutivo della rassegna Diverse abilità in scena, dedicata ovviamente al teatro terapeutico. Per chiudere, e mi preme sottolinearlo perché credo abbia veramente grande importanza, un'attività di valorizzazione delle risorse locali, delle risorse del territorio, a chilometro zero, diciamo così, che sono Matteo Belli, che presenta in prima nazionale il suo spettacolo, il suo nuovo spettacolo Solità, che io ho visto in anteprima ed è bellissimo, e Emanuele Montagna con un testo scritto dal magistrato Dino Petralia, che indaga l'annoso e angosciante problema dei suicidi nelle carceri, insieme alle sue ex allieve Martina Valentini e Asia Galeotti, che sono anche attrici incorporate nella compagnia Teatro Aperto, quindi nella compagnia del Teatro Odeon. Perfetto, grazie per Grazie. questa panoramica veramente ampia ed esaustiva.